Per la prima volta nella storia dell'umanità noi stiamo assistendo a un genocidio in diretta televisiva in tutto il mondo ed è una cosa inimmaginabile. L'indignazione è forte e ci sentiamo anche un po' impotenti di fronte a questo orrore, e lo scopo dell'iniziativa è quello di portare in piazza persone che vogliono uscire dall'indifferenza, persone che vogliono anche cominciare a capire un po' di più fuori dalla narrazione del mainstream. Quindi l'idea nasce appunto intorno a questa formula molto semplice di un reading in piazza. Abbiamo tra l'altro tantissime adesioni da parte di professori, cittadini normali, operai, studenti, associazioni, e tutti porteranno un contributo in piazza, e quindi è quello di smuovere l'indifferenza e fare ognuno la nostra parte per denunciare quello che sta succedendo, per non ritrovarci tra 20 anni, come si dice con i nostri nipoti, a dover abbassare gli occhi perché in questo momento non ci siamo occupati di una tragedia epocale. La formula è simile a quella che avete realizzato insieme a Valerio Minnella a Bologna? Sì, la formula è la stessa. Chiediamo a tutti un contributo, ognuno porta in piazza la propria riflessione, oppure ha scelto una poesia incisiva per aprire un po' il cuore alle persone indifferenti. Quindi sarà un bel momento collettivo in piazza. Diciamo, ho nasato un po' l'aria che tira. Ci aspettiamo veramente una bella iniziativa, piena di gente, ma la cosa che mi sembra più importante è stata l'adesione di tante associazioni per questo appuntamento. Ne cito alcuni, c'è il teatro Due Mondi, Prometeo Arci, Medici Senza Frontiere, abbiamo Maurizio Maggiani, uno scrittore e giornalista che vive qui a Faenza, la libreria Moby Dick. Diciamo, ce ne sono tanti, ne abbiamo tanti di interventi e siamo anche molto contenti. Leggevo che ci sarà anche l'installazione collettiva di una kefia palestinese. Sì, esatto, sarà un work in progress in piazza, sarà una bella sorpresa. Io ho visto il progetto esecutivo, è bellissimo, quindi sarà anche un momento dove si ascolta, ma con gli occhi puoi entrare dentro i simboli di questa tragedia epocale, che sono i simboli del popolo palestinese. In più abbiamo anche qualche intervento musicale a sorpresa, sempre inerente allo spirito dell'iniziativa. Sarà un momento di riflessione forte.